insomma siamo molto contenti perché è andata molto bene, per fortuna c'è stata l'ennesima risposta di un territorio che insomma è composto da diverse realtà fatte di occupazioni abitative, centri sociali, spazi associativi che insomma alla chiamata come al solito avvenuta in maniera insomma un po' sottaciuta e in pochissimo giro, perché diciamo che la notizia ufficiale è arrivata più o meno l'altro ieri sera, ieri mattina. Nonostante questo siamo riusciti ad organizzarci e appunto Salvini questa mattina si è fatto precedere da una serie di personaggi che lo attendevano al mercato di Montagnola, personaggi tra l'altro noti di diversi territori della città, alcuni anche del quadrante prenestino, che erano fisicamente là a preparare la venuta del loro leader, e una quantità impressionante di polizia, nel senso che entrambi gli ingressi del mercato erano presidiati da 3-4 blindati da una parte, almeno un paio dall'altra, con relativa Digos. Per fortuna oggi ci hanno risparmiato gli idranti e la polizia a cavallo, come invece ci hanno proposto il 1° maggio. E chiaramente anche questa presenza di polizia ha raccolto il disappunto dei cittadini e delle cittadine che andavano normalmente a fare spesa al mercato e di chi lavora all'interno di quella struttura, perché chiaramente hanno trovato una delle prime ore della giornata in cui chiaramente anche per gli avventori, per chi voleva andare là a comprare qualcosa, è stato complicato avvicinarsi dato il filtro che la polizia ha provato a fare inizialmente proprio al mercato. Dopodiché i numeri elevati insomma dei compagni e delle compagne che sono venute là hanno sostanzialmente impedito che la polizia continuasse ad effettuare questo filtro, e c'è stato un naturale insomma ingresso e sfondamento all'interno del mercato. E insomma adesso alcuni video stanno anche girando, insomma 50-60 compagni e compagne, con la presenza anche di chi stava là infastidito. Ci sono diversi video che raccontano anche insomma qual è stata la reazione del territorio, e la contestazione sarà determinata nonostante lo schieramento di polizia che ha cercato più volte di allontanarsi da là davanti. Il banchetto è stato diciamo sostanzialmente depredato e non è rimasto molto di più, e agli amici della Lega non è rimasto altro che prendere ed andarsene via. Quindi insomma Salvini ha fatto in tempo a scendere dalla macchina, a parlare con i suoi sostenitori che l'hanno protetto l'intorno e a scapparsene via di corsa. Lui, e ci tengo a sottolinearlo, anche i consiglieri, il consigliere del municipio che dopo essersi riciclato con diverse formazioni della destra, dopo aver sostenuto Alemann ed essere stato coinvolto anche dentro insomma alcuni processi poco chiari della governatura di Alemann, in questo momento ha deciso di riciclarsi con noi, con Salvini. Ma insomma diciamo che è il secondo tentativo che prova a fare nel municipio Roma 8 ed è la seconda volta che gli dice proprio male. Quindi insomma l'appello, qualora ci stesse ascoltando, qualcuno glielo riporti anche al consigliere Baccarelli, a quello insomma di ritirarsi, perché da noi non c'è veramente spazio. Beh, sicuramente, appunto, a parte che adesso ho le immagini davanti a me della contestazione, appunto, e si vede un nutrito gruppo di persone, come ci raccontavi, che si contrappone con le forze dell'ordine. Penso che quello che hai sottolineato è particolarmente importante, no? Come in tutti i quartieri della città sia fondamentale respingere Salvini e ovviamente tutti i politici che adesso a Roma lo sostengono spesso, no? Sono anche persone che hanno fatto per anni, no, politica sulla romanità e la contrapposizione con il centrodestra della Lega. Oggi invece è una grande famiglia di post-fascisti e razzisti, quella di Matteo Salvini, che ha tra le sue fila anche appunto politici romani. E diciamo che sicuramente è stato un segnale importante. Salvini non è il benvenuto a Montagnola, come non è il benvenuto benvenuto in nessuna parte della città e sta a tutti e a tutte dimostrarlo ogni qualvolta questo soggetto prova a presentarsi al centro, nelle periferie o in qualsiasi angolo della capitale. Noi ti ringraziamo per questa corrispondenza da Montagnola, dove ricordiamo, per chi si fosse appena sintonizzato, Matteo Salvini si è recato questa mattina al mercato rionale per appunto fare la solita passerella elettorale e spararne qualcuna delle sue. Noi ti ringraziamo e non mancherà appunto occasione per risentirci per tutto quello che viene prodotto in quel territorio. Ci sentiamo prossimamente. Grazie ancora a voi e chiaramente appunto, cari leghisti, non siete benvenuti. Un abbraccio.